vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 ottobre, il sole in regione sorto alle 7.23 e tramonterà alle 18.28, la luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Da qualche stagione le intenzioni di semina per l'annata a ventura si sono fatte sempre più problematiche. Tante, troppe le variabili, spesso incognite, che si devono affrontare con gli agricoltori. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi alla storia di Angelo Floramo, che ci descrive il passaggio emozionale delle vecchie osterie di campagna, quelle vere. Passando alle normative avremo il punto sulle nuove, nuovissime disposizioni in materia di fertilizzanti, cui seguirà una scheda su una pianta dal nome e origine esotica, che vive e vegeta anche da noi, Lovenia dulcis. Per la rubrica dei sommelier, un fattore strategico per gli amanti del buon bere a casa, la lista dei vini, non quella dei ristoranti, ma quella che si deve avere per la propria cantina. Ci sarà poi una scheda di un fiore oltremodo di stagione, il crisantemo, che a torto qui da noi colleghiamo solo ai riti funebri. In chiusura, come di consueto, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano di vita nei campi. Due volte all'anno Daniele Castagna, vicepresidente di Confcooperative del Friuli Venezia Giulia, ci guida nelle intenzioni di semina per la prossima stagione. Intenzioni oltremodo problematiche già da qualche stagione, perché tante, troppe sono le variabili. Come sta andando quest'anno? Quest'anno, se vogliamo, le variabili sono ancora aumentate, se pensiamo solo all'aumento dei costi dei mezzi tecnici piuttosto che i costi dell'energia. In più, veniamo da un anno molto particolare in cui la siccità e il caldo estivo ha giocato un ruolo determinante, per cui probabilmente ci sarà un aumento delle superfici destinate alla cultura, diciamo così, autunno-vernile, quindi mi riferisco all'orzo piuttosto che al frumento, piuttosto che al colza. E le intenzioni di semine credo che andranno in questa direzione, con un aumento cospicuo della superficie destinata a queste colture, che hanno meno bisogno di acqua, o meglio, si coltivano quando presumibilmente l'acqua c'è. Mais in ritirata, quindi? Probabilmente sì, è presto per dirlo, però mais sicuramente in ritirata, tenendo conto anche delle problematiche sia di siccità che di qualità che abbiamo affrontato quest'anno, se pensiamo a tutte le problematiche inerenti alle micotossine che abbiamo dovuto affrontare in un'annata siccitosa come questa. La soia, perlomeno sul prezzo, ha tenuto però. Non solo la soia ha tenuto sul prezzo, hanno tenuto tutte le colture dal punto di vista del prezzo. Sono aumentati i costi, ma i prezzi delle nostre derrate hanno tenuto. Qual è il problema? Che è aumentato il rischio, per cui spendiamo di più, magari se abbiamo la possibilità di irrigare le cose non vanno male, anzi si difendono bene, ma dove non possiamo irrigare il rischio è troppo alto, per cui si scelgono colture con investimenti dal punto di vista economico più basso, la soia è una di queste, per cui probabilmente nel prossimo anno ci sarà un aumento della superficie destinata alla soia. Le produzioni, tra l'altro, nelle zone irrigue, ma anche dove non si è irrigato, dove c'è un po' di terreno, non c'è solo ghiaia, non sono male, con questi prezzi può essere un'alternativa abbastanza interessante. Ecco. Terze colture. Se parliamo di foraggere, è stato un annato disastroso. Se pensiamo a quelle che sono le quotazioni dell'erba medica, questa è una dimostrazione. Nessuno ha sfalciato, per cui sappiamo molto bene che alcune stalle stanno riducendo il numero dei capi perché non trovano foraggio non solo in Friuli, ma neanche in giro per l'Italia. Per cui questo è un grosso problema, insomma. L'erba medica vale più o meno il mais quest'anno? Siamo sui 35 euro al quintale, quindi vale come il mais. Questo la dice lunga sulla carenza di prodotto. Altre colture, altre idee, soprattutto per quanto riguarda, abbiamo già parlato della mancanza o della scarsità d'acqua, cose tipo il sorgo, per esempio. È una cultura che ha una bassa richiesta d'acqua, però ha un problema nei nostri terreni, che non sono molto costanti come dal punto di vista pedologico, quindi con una variabilità molto alta dal punto di vista della composizione del terreno, matura a fasce, per cui molte volte diventa difficile la raccolta. Sicuramente una cultura che però nel prossimo futuro potrebbe avere uno sviluppo. Delle foraggere abbiamo parlato, però nonostante la brutta stagione ci potrebbe essere un ritorno, visti anche i prezzi di cui si diceva. È quello che ci auguriamo tutti, quello che ci auguriamo soprattutto è che non ci sia una costanza di aumento della siccità, perché sono 3-4 anni che ormai va ogni anno peggio. Ci sarà un anno in cui va meglio dal punto di vista della piovosità. Ce l'auguriamo non solo per il mondo agricolo, ma ce l'auguriamo per tutti, perché la diminuzione delle falde freatiche è un problema non solo per il mondo agricolo, ma un problema per la società intera. Devono essere ruvide, popolari, lontane dalla moda che le vorrebbe finte rustiche. Questi i requisiti minimi per Angelo Flormo per le osterie di campagna, veri e propri giacimenti di storie e vite. Mi piacciono le osterie, specialmente quelle di campagna, che appartengono più alla comunità del luogo che agli avventori foresti, forse perché in posti così si è troppo gelosi del vino buono per condividerlo anche a pagamento con chi che sia. Mi piace andare a stanarle nella polisemia di significati che ogni viaggio comporta, quelle ruvide però, perché le sento sincere, a me affratellate da un comune sentire che apprezza le cose sane, quelle che vengono dalla terra che si coltiva non troppo lontano, o hanno il sapore dell'aia di una delle tante case contadine delle borgate vicine. Devono essere lontane dalla moda, che le vorrebbe finte rustiche ma supponenti e cittadine, oppure, che anche peggio, agro-gastro-chic, ottime per le fotografie con gli ospiti dopo la cerimonia, e quelle bio, slow, young, glamour, anche peggio. No, devono essere popolari, per prezzo e per frequentatori. È osteria vera quando ci puoi annusare l'odore del mondo, che spesso è agrodolce, non sempre gradevole, con un retrogusto di cicca rimasticata e di bestemmia grumata nella gola, pronta ad esplodere come un'invettiva contro tutti quelli che si credono dei padri eterni. Un teatro meraviglioso, zingaresco, colorato, che si anima ad ogni ora del giorno e della notte sotto l'incerto lucore di una lampadina a basso voltaggio. Mi fanno innamorare soprattutto le osterie anarchiche, che ci sono da sempre, con la stessa mobilia, oggi retro, di 50 anni fa, retro anche allora, e che hanno un oste scorbutico, forse anche lui lo stesso di 50 anni fa, perennemente presidiate da una ciurma irriverente, capace di farsi beffa di te appena si intuisce che hai la vocazione del fighettino e non ci entri affatto con tutto quello che loro ti saprebbero raccontare. Mi commuovo quando osterie così chiedono di farci cultura, perché non ne hanno bisogno. La cultura, la controcultura, la fantasia della rivoluzione perenne è cosa che gli appartiene dei tempi di Hermes di Colloredo, che le sapeva cantare come pochi, o di suo cugino Ciro di Pers, che ne ha idealizzati i vini. Per il mondo contadino hanno da sempre rappresentato uno spazio in cui fuggire le asprezze della legge o quelle di una moglie troppo molesta. Il rito del tirare di briscola dopo la sacra funzione della domenica, con ancora indosso il vestito buono della festa, le rende tutte quasi sacre, per questo sante, un patrimonio da tutelare, con la gelosia del cuore e la malinconia del fegato. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di fertilizzanti azotati, in quanto da qualche giorno è in vigore una nuova regolamentazione regionale. Infatti, proprio questo mercoledì sul bollettino ufficiale è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione 119 del 2022, che aggiorna la precedente disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e la adegua alla più recente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva nitrati. Quindi le implicazioni non sono solo agricole, ma anche o soprattutto ambientali. Chi è interessato a questo regolamento? Sostanzialmente tutti, visto che per fertilizzanti azotati si intendono indifferentemente i concimi chimici, quelli di origine zootecnica, quindi letami e liquami, le acque reflue e i biodigestati. Dopodiché i vincoli e gli adempimenti a carico delle aziende agricole sono diversificati a seconda dei quantitativi complessivi di azoto distribuito, delle colture praticate, del tipo di fertilizzanti utilizzati, ma soprattutto della localizzazione. I vincoli maggiori sono nelle zone vulnerabili ai nitrati, le cosiddette ZVN, che corrispondono a tutta la pianura udinese, oltre ai comuni di Brugnera, Montereale e Prata in provincia di Pordenone. Rispetto a prima, cosa cambia? È difficile sintetizzare perché la norma è molto articolata e ci sono tante novità. Tra quelle positive c'è l'introduzione della disciplina dell'utilizzo agronomico dei digestati, Poi viene acquisito in via definitiva il metodo, già sperimentato da qualche anno, di gestione elastica del periodo di divieto invernale di concimazione azotata nel ZVN con il supporto del servizio agrometeo dell'OSMER. È anche stabilito che le comunicazioni obbligatorie saranno prodotte esclusivamente sul portale regionale denominato Nitratti, anziché prevedere il doppio invio anche tramite il SUAP. Significa che ci sono però anche novità un po' meno piacevoli. Ad esempio, il nuovo regolamento prevede tempistiche più ristrette per l'interramento di liquami e letami dispersi in campo. O il trasporto di effluenti zootecnici dall'azienda al campo deve essere sempre scortato da documento di accompagnamento o copia della comunicazione o, se questa non è dovuta, da copia del fascicolo aziendale. Ma la cosa che più preoccupa è l'obbligo di presentazione di un piano di utilizzazione agronomica, comunemente chiamato PUA, anche per le aziende senza allevamento che distribuiscono solo concimi chimici oltre 10.000 kg di azoto ad anno. Insomma, nonostante gli appelli del mondo agricolo alla semplificazione, dobbiamo purtroppo rilevare che i vincoli e gli adempimenti nel tempo continuano ad aumentare. Attenzione poi che, trattandosi di materia ambientale, ogni infrazione rischia di configurarsi come un reato. Per alcuni tratti la possiamo classificare pianta esotica, quale in realtà è, vive però anche da noi, è l'Ovenia dulcis che oggi ci descrive il professor Raffaele Testolin. Alzi la mano chi non ha mai desiderato stupire gli amici con un albero sorprendente e unico che possedete solo voi. Ebbene, l'albero per stupire c'è, si chiama Ovenia e produce dell'uva passa, che non è propriamente uva, ma ne fa le funzioni. L'Ovenia l'ho scoperta casualmente. È un albero introdotto di recente dall'Asia orientale e già apprezzato dagli apicoltori perché fiorisce tardi d'estate quando le fioriture sono scarse e le api sono alla disperata ricerca di nettare. Ma non è questa la stranezza. La stranezza sta nel fatto che l'albero produce delle piccole drupe, peraltro di nessun valore alimentare, attaccate a dei peduncoli carnosi e succulenti che in autunno assumono il colore, la consistenza e il sapore dell'uva passa. E una volta che i frutti sono caduti, i peduncoli possono essere raccolti, mangiati e utilizzati in varie preparazioni culinarie. Il nome botanico Ovenia dulcis ne tradisce le caratteristiche, anche se mangiare peduncoli di frutti è qualcosa di inusuale. Questi grappoli di peduncoli dolci si possono raccogliere dopo la caduta delle foglie e dei frutti, diciamo a dicembre. Si possono conservare per qualche mese in luogo asciutto, prelevando quanto serve per arricchire originali macedonie, per arricchire yogurt e gelati o per farcire strudel. Restando fedele alla promessa di suggerire piante facili da coltivare, devo dire che l'Ovenia si coltiva senza difficoltà in giardino, è molto resistente al freddo e non ha, per quanto possiamo dire in questo momento, parassiti e patogeni. Le piante non si trovano facilmente nei nostri vivai, ma si può ricorrere ai siti web. Attenzione ovviamente al prezzo e alla serietà del venditore. Secondo alcuni studi condotti negli Stati Uniti, l'Ovenia avrebbe il potere di ridurre gli effetti delle sbornie. Ma su questo argomento non vorrei illudere gli amici friulani. Bere moderatamente è certamente la soluzione migliore. Tutti gli amanti del vino e del buon bere dovrebbero averne una, magari anche solo nella mente, è la carta dei vini della casa, da non confondere con quella dei ristoranti, come ci spiega oggi Vladimiro Tulisso nella rubrica dei sommelier. Quando abbiamo la nostra cantina, e la volta scorsa abbiamo cercato di capire come farla, dobbiamo decidere come riempirla, con quali vini. Il mio consiglio è iniziare dalle etichette che ci hanno lasciato un'emozione, che ci ricordano un evento, così da avere sempre a disposizione una specie di album dei ricordi da sfogliare piacevolmente, sfruttando i nostri sensi, che sono una straordinaria attrezzatura sensoriale. Non c'è un unico modo per creare una propria carta dei vini. dovremo garantire una minima presenza di tipologie, alcuni vini rossi, alcuni vini bianchi, qualche spumante, alcuni vini dolci. E non dimentichiamoci delle etichette che sappiamo essere gradite dalle persone cui teniamo o che si abbinano meglio ai piatti che ci piace condividere con la famiglia, con gli amici. Insomma, la cantina va adattata ai nostri gusti e alle nostre abitudini alimentari. La quantità di bottiglie dipenderà anche dalla nostra capacità di spesa. Meglio comunque sempre acquistare piccole quantità di bianchi e rossi di pronta beva e alcuni spumanti, tipologie che non hanno grandi possibilità di invecchiamento. Con i vini rossi più importanti o i bianchi in grado di intraprendere un percorso di affinamento, si può essere più generosi con i numeri. L'acquisto direttamente nelle aziende può diventare un modo anche per spuntare un prezzo inferiore. Cioè, se andiamo a visitare un vignaiolo, 6 bottiglie possiamo acquistarle. È bene ricordare però che se non disponiamo di una cantina adeguata, ma abbiamo trovato la soluzione dell'armadio della nonna, come abbiamo detto la volta scorsa, è meglio non esagerare con l'accumulazione delle bottiglie, perché un vino, anche se importante, è sottoposto a stress ambientali e conduce a delle delusioni inevitabili. Attenzione poi alle mode e ai suggerimenti. Il vino ha un rapporto personale con chi lo beve e i consigli d'acquisto sono utili ma spesso anche interessati. Farsi una cantina significa custodirvi vini che conosciamo, che abbiamo già degustato e che ci sono piaciuti. Solo così avremo la gioia di entrare in cantina e restare bloccati dall'indecisione. Qui è tutto buono. E ora cosa stappo? Se vi farete questa domanda, avrete una bella cantina. Ce ne sono oltre 200 varietà, è uno dei fiori più belli e coreografici di questo periodo dell'anno. Peccato che qui da noi sia associato solo ai riti funebri. È il crisantemo, che ci descrive Alessandro Squizzato. È una pianta che appartiene alla famiglia delle asteracee, originario dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Ci sono circa 200 specie di crisantemi, che si differenziano tra loro per il momento e il tipo di fioritura, il tipo del fiore, che può essere a palla, margherita, dahlia, frangiato, per il ciclo vitale, per il portamento. Le varietà più comuni sono adatte alla coltivazione in vaso, dalle piccole dimensioni a vasi importanti, in cassette e in ciotole, in piena terra. Pensiamo ai nostri nonni che li coltivavano nell'orto accanto alle verdure. La propagazione del crisantemo può avvenire per seme o per talea. Viene coltivato in pieno sole e si adatta a tutti i tipi di terreno, meglio se a pH neutro, fertili e ben drenati. Evitiamo quindi ristagni d'acqua. È una pianta che necessita di molto concime, soprattutto se coltivato e mantenuto in vaso. Resiste bene alle basse temperature, anche se sotto i 3-4 gradi sarebbe meglio ripararlo, oppure usare del pacciamante alla base del terreno se la pianta è coltivata in terra. La potatura si effettua dopo la fioritura, eliminando i fiori e i rami secchi a circa 10 cm da terra. Al mese di maggio occorre poi cimarlo. Si effettua questa procedura circa 2-3 volte durante l'estate per mantenere la pianta compatta e favorirne l'infoltimento e l'irrobustimento. Il crisantemo è una pianta brevidiurna. Fiorisce, cioè, quando le ore di luce cominciano ad accorciarsi. In Italia fiorisce naturalmente alla fine di ottobre e, per la concomitanza della fioritura con la celebrazione dei defunti, viene utilizzato principalmente per abbellire le tombe dei propri cari, assumendo così un significato un po' funesto. In realtà però il nome, che deriva dal greco, significa fiore d'oro. In Giappone è il fiore nazionale, mentre in altri paesi orientali come Corea e Cina è il fiore dei festeggiamenti. Matrimoni, compleanni. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 34,80 e 35,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 36,10 e 36,60, l'orzo, peso specifico 62,65, tra 31,40 e 31,90 e la soia tra 60,10 e 60,60. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,50 euro e la soia di 2 euro al quintale. Discrete contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in leggero aumento. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,50 e 1,60 euro al chilo IVA esclusa. Le zucchine tra 2,20 e 2,50. Le melanzane tonde tra 2,20 e 2,30. I peperoni gialli e rossi italiani tra 2,50 e 2,90. I pomodori in grappolo tra 2,90 e 3 euro. La scarola riccia tra 3,50 e 3,60. Il radicchio rosso tondo tra 1,60 e 1,90. Quello di Treviso precoce tra 1,90 e 2,20, le patate tra 0,65 e 0,75, le mele Gala tra 0,85 e 1,30, le pere Williams tra 2 e 2,30, l'uva tra 1,80 e 2,50, i cachi tra 1,80 e 2,20, le clementine in foglia tra 2,20 e 3,50, le arance estere tra 1,60 e 1,80. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è proficua e i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 13 a 24 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 5 a 20, le sogliole da 6 a 22, le passere da 12 a 16, i latterini da 8 a 10, gli sgombri da 10 a 14, le anguille da 22 a 24, le seppie da 7 a 13. E i moscardini o folpi da 6 a 17 euro al chilo. Prezzi stabili nel settore dei foraggi, con buone richieste del mercato. Il fieno Mazengo di pianura viene quotato tra 18 e 20 euro al quintale, IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità tra 34 e 35 euro, mentre la paglia di cerai pressata tra 14 e 15 euro al quintale. Infine, scambi attivi con prezzi in aumento nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,59 a 1,61 euro al chilo, IVA esclusa. Le anatre tra 3,61 e 3,65, i tacchini maschi da 2,15 e 2,17, i conigli oltre 2,5 kg da 2,89 e 2,95, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 22 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. La prima metà di ottobre è passata senza nessun elemento meteorologico significativo. Praticamente non ha mai piovuto e le temperature sono rimaste un po' più alte della norma. Il mare ad oggi ha una temperatura ancora superiore ai 20 gradi, quando invece dovrebbe essere sotto tale soglia. I venti non sono stati significativi. Forse l'unico elemento degno di nota per il periodo è proprio la mancanza di piogge. La settimana entrante vedrà ancora l'anticiclone nordafricano estendersi fino alle Alpi e oltre, con lo zero termico che tornerà a salire anche a 4.000 metri di quota, come d'estate. Ciò conferirà all'atmosfera una grande stabilità e rispetto alle due settimane precedenti cambierà ben poco. Pertanto nei prossimi giorni e probabilmente fino alla fine settimana avremo cielo poco nuvoloso, venti deboli, temperature oltre la norma con massime ancora oltre 20 gradi su pianura e costa e possibilità di nebbie notturne sulla pianura in alcune valli. Questa seconda decade del mese sarà quindi secca e più calda della norma. Tra alcuni giorni potremo valutare se nella terza e ultima decade le cose cambieranno. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Se le bial è il dì di San Gial, le bial fin a Nadal, ovvero se è bello il giorno di San Gallo, il 16 ottobre, farà bello fino a Natale. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.